No, no, ma veramente, cioè non volevo essere... Cioè, parla, parla. Volevo solo... Sì, no, ma infatti volevo solo dire di venire qui al microfono, si sentiva meglio. Non è... No, ho visto tutti alzarsi. No, ma infatti, cioè, non era una volontà. Mi sembrava che già c'era la situazione abbastanza chiacchierata, abbiamo detto così. Non era la volontà di troncare nessun tipo di dibattito. No, non saremo alla cena, quindi non potremo chiacchierare dopo, semplicemente per quello. Cioè, molto brevemente, figurati. Poi non so se Federica vuole dire qualcosa. Io e Federica coltiviamo in Oltrepò, non è la nostra prima occupazione perché non potremo camparci, per adesso. Siamo vignaioli, facciamo il nostro vino circuito interno, non lo vendiamo per adesso. E abbiamo anche esperienza agricola all'estero, nel senso che per altre ragioni. Quello che mi chiedo è una nota critica per Critical Wine, voglio dire, meglio di così non c'è. Abbiamo visto quante di queste esperienze vengono dall'urbano, no? E abbiamo visto quanto la politica sia sia inevitabilmente il linguaggio e le pratiche siano egemonizzate dall'urbano, e anche le esperienze agricole che noi portiamo qui, e io sono parte di questa storia, siano urbane. Come mai, e non ci chiediamo questo, io lo vivo in Oltrepò, sarà una zona depressa, ma come mai nelle zone rurali questa continuità planetaria spesso non c'è? Spesso non c'è, o meglio, non c'è da parte di chi viene da lì, di chi è anche lì, o sapendo benissimo che la zona rurale è un misto di migrazioni oggi, di gente che era, tra virgolette, nativa. C'è una certa arroganza, penso, implicita, io conosco esperienze in Oltrepò e certe esperienze italiane, nel non riuscire, c'è comunque un non riuscire a parlare con i contadini, tra virgolette, qualunque essi siano. E questo, voglio dire, per me rimane in dubbio qua in Italia e rimane un grosso problema di criticità nei confronti di quelle che noi chiamiamo come esperienze di continuità planetaria. Parliamo dell'India con Mandana Shiva, parliamo con altre. Ci sono grossi problemi di rappresentatività di queste, ci sono grossi problemi di egemonicità dell'urbano su queste esperienze. E non voglio dire che tutto è niente, che tutto è falso, ma cerchiamo un attimo di capire quali errori e quali problemi di comunicazione, di linguaggio, di egemonia, io ne parlo, ci sono anche in queste esperienze. Non so se potete cogliere la nota critica, non so se per caso voi la percepite, nel senso che comunque veniamo da altre esperienze e ci siamo immessi nell'agricoltura, non tutti probabilmente, spero non tutti, voglio dire, per fortuna ci sono tragitti diversi, però questo è un problema cruciale, perché inoltre poche sarà zona depressa come tante zone contadine in Italia, queste cose i miei amici agricoli ne vogliono hanno le loro forme di resistenza, ma queste cose non ne vogliono sentire perché campano per altre ragioni, perché hanno una incredibile diffidenza verso i vostri linguaggi che ho sentito stasera, non ci capiscono, usano altre parole, hanno anche, no, altri sistemi di idee, questo è un grosso problema. Possiamo sicuramente spingerci verso una continuità planetaria, ma cerchiamo di vedere anche le contraddizioni della realtà e che ci siamo in mezzo e sono in mezzo in questi tentativi di movimenti. Guarda,